Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi una storia a tinte forti che ha per protagonista una donna dimenticata. Nessuno parla più di lei. Anche all'epoca dei fatti di lei si seppe sempre poco. La protagonista di questa puntata è Rose Montmasson. Rose fu l'unica donna tra i mille di Garibaldi. I siciliani l'avevano ribattezzata Rosalia. Nasce il 12 gennaio del 1823 a San Giorgione nell'Alta Savoia, che oggi è territorio francese ma allora faceva parte del regno di Sardegna. Famiglia umile ma liberale, come sono liberali tutti in quella terra. I suoi genitori non fanno distinzioni nelle educazioni tra i figli maschi e le figlie femmine, e quindi Rose impara a leggere e scrivere, e non è poco di quei tempi. Questo la rende già diversa dalla maggior parte delle altre ragazze, che sono analfabeta. Rose si sente indipendente, ha voglia di farsi la sua vita, non ci sta a diventare una moglie devota, condizione a cui aspirano tutte le sue amiche. Quindi a 20 anni decide di trasferirsi a Marsiglia, una single ante litteram che si mantiene facendo la lavandaia. Non abbiamo sue notizie in quella fase, ma quello che è certo è che in un anno non ben precisato, tra il 1844 e il 49, fa l'incontro decisivo della sua vita, conoscendo colui che trasformerà la sua intera esistenza. I dettagli dell'incontro non sono giunti fino a noi, ma la giovane lavandaia conosce un patriota italiano del quale si innamora perdutamente, il siciliano Francesco Crispi. Claudia Galimberti, autrice del libro Le donne del Risorgimento, scrive così. La passione che li unisce diviene lo specchio di altre passioni, di amor patrio, di liberazione dallo straniero, di dedizione alla causa dell'unità nazionale. Crispi trova in questa donna attraente e leale il sostegno emotivo che gli manca e che la passione politica non può dargli. Rose è attratta dalla fierezza dell'uomo, dalla sua cultura, dalla sua educazione. La nostra lavandaia Rose incontra Francesco Crispi, un rivoluzionario, cospiratore antiborbonico, mazziniano, organizzatore della sommossa palermitana del 48. Crispi si trova a Marsiglia in esilio. È un animale in gabbia, lui che è stato deputato del Parlamento autonomo della Sicilia, adesso è dovuto scappare in Francia, non si dà per vinto e sta solo aspettando il momento per fare un grande rientro, per riorganizzarsi. Quest'uomo dagli alti ideali di libertà e di fratellanza incontra questa ragazza, Rose. È un colpo di fulmine che durerà tutta la vita, per lei però. Rose è una donna anticonvenzionale, è uno spirito ribelle fin da piccola, è una fiera, disinteressata savoiarda, ardita dall'animo pieno di coraggio, anzi di fuoco. Di sicuro Rose non vuole il matrimonio come tutte le sue coetanee, aspira invece a una cultura più elevata di quella che è riuscita a ottenere a scuola. Benché sia sicuramente più istruita della maggior parte delle ragazze, si confronta con Francesco Crispi, che ha studiato in seminari, è laureato in giurisprudenza, è un avvocato ed un uomo di grande cultura. Se non fosse così antiborbonico, la sua vita sarebbe sicuramente quella di un valente professionista, tranquillo, una vita agiata, ma lui è un patriota e si ferma poco a Marsiglia perché non vuole perdere tempo in esilio. Il suo posto è là dove si lotta per l'indipendenza dell'Italia. È là dove ci si può riorganizzare in fretta. E ormai le acque si sono calmate, per cui Francesco Crispi è pronto a ricominciare. Ma questa volta non è da solo, perché al suo fianco c'è lei, Rose Montmasson, della quale si è innamorato. Lei lo seguirebbe in capo al mondo. La coppia decide di rientrare in territorio italiano, va a Torino, che è la capitale del Regno di Sardegna e che è la culla delle idee liberali, dove Francesco Crispi è sicuro di poter riprendere i contatti con i rivoluzionari che ha dovuto abbandonare quando è scappato per potersi salvare. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. Rose Montmasson segue il suo innamorato Francesco Crispi, l'uomo per il quale lascia ogni cosa. Cancella tutta la sua vita con un colpo di spugna e la sua tranquillità. Cancella un'esistenza che sarebbe stata semplice ma sicura e si butta con tutta l'energia dei suoi 26 anni in questa storia d'amore. Un amore col quale ci si può scottare, i risvolti sono arditi e pericolosi perché Crispi è un fuggiasco, è bandito dal Regno delle Due Sicilie in quanto cospiratore. Lei non ci pensa neanche un minuto, perché l'amore in questo caso si intreccia con i suoi ideali di libertà e la passione per un uomo con la passione per la patria. Lui ha 31 anni. Le piace sia come uomo che come idealista. Lei vede davanti a sé un futuro roseo. Va detto che Crispi ha dei trascorsi burrascosi e disordinati con altre donne. È già stato sposato, dal suo matrimonio era nata una bambina, perché sia la moglie che la figlia sono morte. Poi ha avuto un altro figlio che si chiama Tommaso, dalla relazione con Felicita Veglia, una donna di 10 anni più grande di lui e già madre di un altro bambino. Il piccolo Tommaso adesso è con Crispi a Marsiglia. A Rose lui ha detto che la relazione con Felicita è finita da tempo, ma non è proprio così. Quando i due si trasferiscono a Torino insieme al bambino, Felicita gli piomba in casa e scoppia il finimondo, perché la prima moglie, Felicita, non riesce a accettare che il suo uomo abbia un'altra, e d'altra parte Rose lo credeva libero sentimentalmente. Quindi c'è la gelosia di mezzo, l'orgoglio ferito, l'umiliazione, la competizione. Ognuna delle due donne lo vuole Crispi per sé. Nasce uno scompiglio incredibile. E il rivoluzionario ha creato una rivoluzione ben più complicata in casa sua, non sa più come uscirne. Chiede perfino aiuto al suo amico giornalista Cesare Correnti affinché lo aiuti a far espellere Felicita dal Piemonte, perché lui ha scelto Rose. Lei è la sua donna e qui non si va per le spicce. Crispi è un novello Bellamy che gestisce così le sue storie d'amore. Però Felicita racconta al Correnti una sua versione diversa, accusa perfino Rose di maltrattare il figlio se lo va a riprendere con la forza. Nel libro dal titolo emblematico Il ministro e le sue mogli, gli autori Enzo e Nicola Ciconte raccontano l'epilogo della vicenda. Non si sa se la mossa di staccare Tommaso da Crispi fu fatta per cercare di recuperare tramite il figlio il padre, oppure semplicemente perché Felicita volesse riavere il figlio con sé. Fatto sta che, andando via il figlio, Crispi fu più libero e Rose ebbe la strada spianata. Felicita fece di tutto per tenere quell'uomo, ma ad un certo punto capì che la sua era una battaglia persa. Non si arrese mai a quell'idea, ma comprese che non poteva mutare la realtà dei fatti e non poteva vincere contro una donna come Rose, che aveva anche molti meno anni di lei. La vita di Rosa, di Rose Montmasson, a fianco di Francesco Crispi, non sembra quindi una passeggiata già dagli esordi, e prosegue anche peggio, perché passato il ciclone si profila all'orizzonte una nuova incredibile prova che i due stanno per affrontare. Il falco e il gabbiano. Il grande amore tra Rose Montmasson e Francesco Crispi cresce, alimentato dalla grande passione rivoluzionaria e dalla lotta per l'indipendenza della patria, dall'amore per la libertà. Rientrano in Italia, vanno a Torino, capitale del Regno di Sardegna, dove Crispi riallaccia i contatti con i compagni rivoluzionari che ha dovuto abbandonare quando è fuggito all'estero. Ma qui accade qualcosa di inaspettato e di molto grave. Crispi, dopo aver combattuto lungamente i Borboni, si dimostra apertamente critico anche nei confronti dei Savoia e partecipa all'insurrezione mazziniana del febbraio 1853, che però fallisce. La polizia torinese lo arresta e lo rinchiude nelle carceri di Palazzo Madama, in pieno centro. Rose fa già da tempo la lavandaia per le carceri, al compito di riportare la biancheria pulita ai detenuti politici. È una fortuna perché riesce a incontrare Francesco e a portargli nascosta tra la biancheria qualcosa da mangiare senza che lui debba assaggiare le schifezze che si cucinano nelle prigioni dei Savoia. La condanna a Crispi e ai suoi amici patrioti arriva dopo pochi giorni. Viene espulso dal Piemonte. Nel Regno delle Due Sicilie è bandito, ora lo diventa anche nel Regno di Sardegna. Non ha più un posto in tutta la penisola dove possa rifugiarsi. Allora lui e il suo gruppo devono riparare all'estero. Potendo scegliere, optano per Malta, che allora è una colonia britannica. È il posto più sicuro, ma anche il più vicino alla loro patria. Noi abbiamo dei padri, ci stanno guardando da lassù, mentre il passato conserva la nostra memoria. C'è il fischiare del vento, non potrai. Rose è molto allarmata. Crispi deve lasciare subito Torino, deve raggiungere Genova per imbarcarsi alla volta di Malta. Francesco non la vuole con sé perché il viaggio è avventuroso e faticoso per una donna, e poi a Malta non sa bene cosa lo attenda. Ma lei non ci sta. Abbiamo visto che donna combattiva sì, abbiamo capito quale rapporto d'amore incondizionato la leghi al suo uomo. E poi lei, sotto sotto, di Crispi non si fida e probabilmente fa bene. Quando ha dovuto lasciare Palermo per rifugiarsi a Marsiglia, dove si sono conosciuti, Crispi ha abbandonato Felicita portandosi via il figlio Tommaso nato dalla relazione con la donna. Rose non vuole fare la fine di Felicita, non vuole essere abbandonata anche lei. Ma poi c'è anche un altro motivo che nessuno sa. Lei è sterile, non potrà mai dare un figlio a Francesco, e questo la rende ancora più vulnerabile, perché almeno un figlio in qualche modo li legherebbe per sempre. Ma questa volta deve cedere. Francesco Crispi lascia Torino senza di lei, alla volta di Genova con 20 compagni. Si imbarca sul mercantile Oronte che lo porta a Malta, da solo. Lei non si dà per vinta e decide di raggiungerlo. I soldi li ha perché ha sempre continuato a lavorare e, anche se il suo è un lavoro umile, si è sempre mantenuta egregiamente. Non ha paura di viaggiare da sola. Niente può fermarla. Quando arriva a Malta, trova Francesco in condizioni pessime. Non ha un lavoro, ovviamente. Il suo amico Cesare Correnti non lo ha aiutato più di tanto. Abita a La Valletta, la capitale, dove le case costano molto, e i pochi soldi che ha non gli bastano per sopravvivere degnamente. Rose arriva come un vento caldo, riscalda il cuore di Crispi e gli organizza la vita. Si trova subito un lavoro, cerca casa in un paesino vicino alla capitale dove tutto costa meno. Già allora, vedi, e dà alla loro vita una parvenza di normalità. Ma Crispi non è uno che sta con le mani in mano. Intanto gli offrono di dirigere un giornale che si chiama La Staffetta e lui accetta subito perché vuole approfittarne, perché da quelle pagine inizia a pubblicare articoli in linea con le idee mazziniane e inneggia l'Italia, una libera e indipendente. Pubblica addirittura una lunga circolare di Mazzini che chiama gli italiani alle armi. Il governatore maltese è irritato da quelle posizioni rivoluzionarie, gli intima di lasciare l'isola entro 15 giorni. È a questo punto che Rose lo obbliga a fare un passo decisivo. Dobbiamo sposarci, Francesco. Ormai è troppo tempo che stiamo insieme come fossimo marito e moglie. Tu sei tanto audace e temerario come cospiratore, intrepido e coraggioso. Ma quando si tratta di matrimonio diventi incerto, pavido, non sai deciderti. Ti vengono mille dubbi, sei confuso, sei titubante. Ma io questa battaglia non la voglio più combattere. Qui a Malta, sposiamoci prima che tu parta. E così si ripete una storia che durerà per secoli. Lei che vuole sposarsi, lui che nicchia. Francesco Crispi deve lasciare Malta e ha deciso di partire per Londra e di raggiungere Mazzini, che si è rifugiato nella capitale britannica. Prima però ha questa grana, deve fare questa cosa. Rosa è la sua donna, lo ha aiutato e adesso gli presenta il conto. Lei è una valida compagna, ha le sue stesse idee, lo incoraggia nelle attività politiche, addirittura lavora per portare a casa i soldi. Lui in teoria non vorrebbe sposarsi, soprattutto non vorrebbe sposare una donna che sicuramente sua madre non approverebbe. La madre è una persona molto ricca e per il figlio ha sempre immaginato un matrimonio bene, come si dice, con una giovane dell'aristocrazia, con una donna raffinata, non con una lavandaia come Rose. Ma tant'è, il 27 novembre del 1854, finalmente Francesco Crispi e Rose Montmasson si sposano. Finalmente lei è felice, può farsi chiamare da tutti Rose Crispi, è sua moglie davanti a Dio, anche se lui sta per partire in tutta fretta per Londra. Ma lei è serena perché sa che lo vuole raggiungere al più presto. Il neomaritino Francesco Crispi lascia Malta appena 3 giorni dopo il matrimonio. Comunque è un fuggiasco, viaggia nascondendosi. Rosa ha capito che è meglio non partire subito, aspetta qualche mese, a febbraio lo raggiunge a Londra. Ma lì non si trovano bene, il clima è terribile, non conoscono la lingua, Mazzini può fare ben poco per la coppia di novelli sposini. Così si trasferiscono a Parigi, visto che almeno parlano entrambi perfettamente il francese. Come al solito è Rose che si rimbocca le maniche, fa la lavandaia e mantiene lui. Intanto Francesco sceglie con calma un lavoro più giusto per lui, per fare una discreta carriera come corrispondente di affari con l'Inghilterra. Con tutti coloro che frequentano la sua casa riconosce di buon grado le doti di Rose e l'apporto che la moglie dà al benessere della sua famiglia. Non sarei mai riuscito a fare molta strada senza i sacrifici di mia moglie, che ad una sana istruzione unisce tutte le virtù domestiche. È il mio angelo tutelare e sa associarsi con abnegazione alle difficoltà della vita. Ci sono ancora valigie da fare perché Francesco decide di rientrare a Londra perché ha riallacciato i contatti con Mazzini e vuole sostenere una nuova insurrezione che sta per scoppiare in Sicilia. Scrive una lettera a Crispi insieme al patriota Rosolino Pilo, nella quale richiede un intervento militare di appoggio all'insurrezione siciliana. La lettera è indirizzata al generale Giuseppe Garibaldi. Poi, insieme a Nino Bixio, va dallo stesso generale, che si trova a Torino. La decisione viene presa. Si organizzerà al più presto una spedizione che raggiunga la Sicilia per dare man forte agli insorti. Garibaldi, Bixio, Crispi e altri 1000 uomini saranno in prima linea a combattere per l'unità d'Italia. Ma tra loro ci sarà anche una donna, la sola donna tra i 1000, Rose Montmasson Crispi. La sua avventura continua tra poco al Falco e Gabbiano. La nostra puntata di oggi è dedicata a Rose Montmasson, che è una rivoluzionaria, è una donna del risorgimento italiano, ma è anche una passionaria, è una donna che compie azioni pericolose per amore. Lei ama perdutamente Francesco Crispi, che riesce a sposare. Lui è uno degli artefici del risorgimento, è l'ispiratore dei moti rivoluzionari e indipendentisti che precedono l'unità d'Italia. E siamo arrivati a raccontare proprio come Francesco Crispi e Nino Bixio contattino Giuseppe Garibaldi. L'eroe dei due mondi è il grande combattente per gli ideali di libertà che non fa distinzione di bandiera quando si tratta di lottare per l'indipendenza di un popolo. Lo contattano perché lui, col suo esercito, faccia da supporto ai moti rivoluzionari siciliani. Garibaldi ci sta. È molto arrabbiato perché lui è un nizzardo, è nato a Nizza quando Nizza era italiana, ma Cavour cede i territori di Nizza e Savoia ai francesi per questioni politiche, di strategia, di interesse, senza tener conto del cuore di quei popoli che batte per il tricolore, quello bianco, rosso e verde. Garibaldi è sconvolto e decide di gettarsi a capofitto nell'impresa che ha come scopo riunire tutti i territori italiani, tutto lo stivale sotto un'unica bandiera. L'insurrezione siciliana è scoppiata, con fasi alterne, notizie alterne. Un po' vittoria dei Borboni, un po' degli insorti, ma intanto Francesco Crispi è lì, ha sempre al suo fianco Rose e i due si fanno forza a vicenda. Sanno che dipende tutto da Garibaldi e lo vogliono convincere a ogni costo. Per questo inviano dispacci, cercano contatti. Spesso è proprio Rose che fa da staffetta tra i cospiratori per non dare nell'occhio. Le notizie arrivano frammentarie, sono giorni di attesa. Ma infine, da Palermo, arriva il telegramma decisivo. L'insurrezione vince nella città di Palermo, si sostiene nelle province. Notizie raccolte da profughi giunti a Malta su navi inglesi. Finalmente iniziano i preparativi, ma c'è un problema. Come si fa a comunicare con gli insorti in Sicilia e a Malta? Le istruzioni militari di Garibaldi devono raggiungere i rivoluzionari. A capo dei ribelli c'è Giacomo Agresta a Palermo e Nicola Fabrizi a Malta. Ma non è che puoi inviare una lettera o un telegramma che potrebbero essere intercettati. Intanto Francesco Crispi, Nino Bixio e Rosolino Pillo sono braccati e non possono mettersi a viaggiare in lungo e largo per il paese rischiando di essere arrestati. E qui, come al solito, ci pensa lei, Rose Montmasson. Ci andrà lei perché lei dà meno nell'occhio, nessuno la conosce, è la persona giusta. Non si sa se in quell'occasione Francesco Crispi sia reticente al fatto che sua moglie si esponga. Garibaldi è abituato alle gesta ardite di Anita e quindi vede in Rose lo stesso ardore che leggeva negli occhi della sua adorata moglie deceduta. Così le assegna quel compito così importante e pericoloso. Rose parte, arriva per prima in Sicilia, accolta a braccia aperte dai rivoltosi. Lei in fondo è la moglie di Crispi. Le cambiano il nome, da Rose la ribattezzano Rosalia, che peraltro è il nome della loro santa protettrice. Rose o Rosalia porta i dispacci dal generale Garibaldi, il salvatore, quello che intende restituire le terre italiche agli italiani. Giacomo Oddo, giornalista dell'epoca, scrive così di Rosalia Montmasson. Per lei si potettero riannodare in unità d'azione Genova, la Sicilia e Malta. Per lei i disegni, le aspirazioni, la rivoluzione volarono dalle spiagge della Liguria a quelle della Trinacria. Dopo essersi recata anche a Malta, Rose rientra a Genova, dove suo marito, insieme a Bixio, sta organizzando la spedizione di Garibaldi. Il generale è reduce dalla brillante campagna di Lombardia, dove ha sconfitto un esercito regolare con i suoi volontari. Anche per questa spedizione in Sicilia intende fare ricorso all'arruolamento di volontari. Un flash mob ante litteram. La campagna di chiamata alle armi raccoglie in Liguria, a Genova, 1162 uomini. La provincia di Bergamo è quella che conta il maggior numero di uomini, ma ci sono volontari da tutte le regioni e tra loro una sola donna, Rose, oggi Rosalia Montmasson. Ha faticato non poco per essere lì. Naturalmente suo marito Francesco non voleva che lei partecipasse alla spedizione. Stiamo parlando comunque di una guerra vera e propria, si sparerà e anche molto, non è quello il posto per una donna, ma lei è irremovibile. Se andava bene per portare i dispacci in Sicilia a Malta, perché non dovrebbe andare bene anche per seguire il marito a Palermo? E poi quella è una guerra personale per lei, non è solo l'anima rivoluzionaria, quella è la lotta per il suo amore. Lei vuole dimostrare quanto sia disposta a fare per Francesco, per i suoi ideali, per fargli capire che è pronta a dare la sua vita per lui. E siccome lui non cede, va dal generale, va da Garibaldi in persona e Garibaldi le risponde così. Venite dunque se così vi piace, ma ricordatevi che vi esponete a grave rischio e pericolo e che io non posso rispondere di nulla. Yeah. 5 maggio 1860 da Quarto al Mare, quartiere del Levante di Genova, salpano due vapori, il Piemonte e il Lombardo. A bordo ci sono 1161 uomini e una donna, Rose Montmasson, detta Rosalia. Garibaldi aveva vietato tassativamente agli uomini di portarsi dietro le loro donne e anche alcune ragazze combattenti sono state lasciate a casa. Solo Rose si è guadagnata quel posto nella storia, compiendo questo viaggio tra Genova, Palermo e Malta, perché Garibaldi non se l'è sentita di dire di no a lei. Le chiede di usare un po' di furbizia affinché non si scopra subito che lei in realtà è una donna. Così si traveste da uomo e si dipinge perfino la barba sul volto, come è raccontato in un breve episodio della serie televisiva Eravamo solo mille di Stefano Reali, uno dei pochissimi film in cui compare anche la figura di Rose o di Rosalia. A Villa Spinola le ore passavano e i volontari aspettavano, pazienti. Io cercavo di capire cosa fare. E forse c'era qualcuno a cui chiedere un consiglio. Ma cosa vuoi ancora? Stai sempre a guardare te? No, e io... Vi volevo soltanto chiedere scusa per prima, con vostro marito. Non è che era colpa mia. So tirare di spada meglio di lui. Dovrei rinunciare ad usarla solo perché non ho la barba. Me la dipingo la barba. Certo. Vi sta pure bene. Come ti chiami? Corrado Paternò. E voi? Rosalia Montmasson. Sei insieme a Pilo? A chi? A Rosolino Pilo, il vostro patriota. Quello che ha raccolto tutti voi volontari siciliani. Com'è che non lo conosce? Perché io non sono un patriota. Sono venuto soltanto per portare delle informazioni. E adesso che le informazioni le hai date, cosa ci fai ancora qui? I Borboni hanno interrotto tutte le linee con la Sicilia. Io vorrei tanto tornare a casa. Bene. Tu l'hai avvisato, Carini, che a te serve solo un passaggio in Sicilia. Una volta sbarcati te la dai a gambe e ci abbandoni, sì? No, aspettate, io... Tranquillo che non dico niente. A noi serve gente che darebbe pure un braccio per combattere. Quelli come te fanno solo danni. È meglio anche per noi se te ne vai, credimi. Guarda loro. Loro si faranno ammazzare pur di fare l'Italia. Volontari, si parte! L'11 maggio i 1000 sbarcano a Marsala e nei giorni successivi, irrobustiti da oltre 1000 volontari siciliani, superano quota 2000, quindi in realtà i 1000 diventano 2000, avanzano fino quando a Calatafimi si scontrano con le truppe borboniche. Lei non si risparmia. Rose Montmasson imbraccia il fucile a fianco di Francesco. La sua guerra è la stessa del suo adorato marito. Rischia la vita pur di stare con lui. Di giorno Rose combatte come un uomo, la notte cura i feriti. Nel giro di una settimana le camicie rosse entrano in una Palermo insorta. L'esito della spedizione dei 1000 è positivo. La vittoria garibaldina porta all'annessione del regno delle due Sicilie al regno di Sardegna. È il preludio all'unità d'Italia. Dopo il 1861 l'Italia si unisce definitivamente. Francesco Crispi viene eletto deputato nel nuovo Parlamento. È finito il tempo della vita da clandestino. È finito anche il tempo delle lotte corpo a corpo, dell'assalto alla baionetta. Ora per lui è il momento di combattere un altro tipo di battaglie, quelle con la parola, con le sue eccelse doti di uomo politico che gli valgono una brillante carriera. Dal moschetto alla poltrona, si trasferisce a Roma, dove inizia a frequentare il bel mondo, la creme di una nuova società che si sta formando. Ecco che improvvisamente Rose non va più bene. È perfetta come combattente quando si traveste da uomo e si tinge il volto per figurare la barba. È perfetta quando non si vergogna di fare la lavandaia. Lui l'ha sposata a Malta, ma adesso è una persona scomoda perché non ha quella cultura che serve nei nuovi salotti che Francesco frequenta. Non è di quell'estrazione sociale che è indispensabile per la moglie di un deputato. Lui si vergogna di lei. Non può condurla nei ristoranti alla moda, nelle case dei colleghi politici. E così Crispi, recidivo, abbandona Rose come ha fatto ai tempi con Felicita. Anzi, fa di peggio. La ripudia. Rose dice: non è mai stata veramente mia moglie. Quel matrimonio celebrato in tutta fretta a Malta non è valido. È stata una manfrina, tanto per tenerla buona. Yes, I'm left out in the cold. Left standing here alone. And the moon was lying. Yes, the moon was lying. È vero che non bisogna mai aspettarsi la gratitudine dalle altre persone, però in questo caso si esagera. Rose Montmasson è ripudiata da Francesco Crispi dopo tutto quello che ha fatto per lui. Anche perché lui si è innamorato di una nobile leccese figlia di un magistrato, Lina Barbagallo, la sposa in gran segreto. Naturalmente i suoi avversari politici, che non sono pochi, non perdono questa occasione per screditarlo. Rintracciano il certificato di matrimonio di Malta, quello con Rose Montmasson, e lo accusano pubblicamente di bigamia. Crispi in quel momento è ministro degli interni, lo scandalo è tremendo, perfino la regina Margherita di Savoia si rifiuta di stringergli la mano in pubblico. Lui è costretto a dimettersi e affrontare un processo. Ne esce per un cavillo, perché il prete di Malta non era autorizzato a celebrare matrimoni e Crispi non aveva registrato le nozze entro 3 mesi dal suo arrivo in Sicilia, come previsto dal codice civile borbonico. Se la cava dal punto di vista giuridico, ma non da quello morale, perché il suo comportamento gli provoca il biasimo generale. Rose intanto continua ad amarlo, lo ama con tutta se stessa, anche se lui l'ha ripudiata, la ama contro qualsiasi evidenza, rimane a Roma, è dimenticata da tutti, anche dai libri di storia, vive con la piccola pensione assegnata ai 1000 e muore a 81 anni in povertà, tanto che la sua salma viene tumulata in un semplice loculo concesso gratuitamente dal comune nel cimitero del Verano, una visita che sarebbe consigliabile fare per rendere omaggio alla donna dimenticata dalla storia. L'unica donna tra i 1000. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, volare in alto e fare cose che hanno lasciato un segno. Storie di chi ci è riuscito, di chi ha avuto cadute, risalite, perché ognuno di noi nella sua vita può rischiare di cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto. Se volete, mandateci i vostri commenti o segnalateci altre vite su cui puntare i riflettori o il mio microfono, il Falco il Gabbiano, @radio24.it, oppure Facebook, oppure i vari profili, dai che mi trovate. Portivi li pannelli camisa stretta ad un ciccio crisp quando gli era in carceretta e da snadduno che gli era ben fatta e che il cuore tuo voletta fenu patta che tu all'andomma facciai l'avvocato senza perdere tempo se gli era di chiaretta tu ti imbagliarest per la che pace tenaia e tra innamorest e tanto t'abbastaia. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.